Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, siamo arrivati, ci siamo anche noi. Purtroppo Cittadella ha perso, speriamo che il ritorno con il Brescia domenica sia un po' diverso. Ma noi chiaramente Rock Wave continua e stasera ringraziamo di aver atteso, ma siamo arrivati al momento giusto. Alex e The British Blues Band, va bene così? Va benissimo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera Alex, buonasera a Michele Tosò in regia, il mitico Michele. E Rock Wave comincia, questo mercoledì dedicata. Tu provieni dal blues, come mai il blues è un po' spostato al discorso anglosassone, Alex? Guarda, è un percorso abbastanza, diciamo, che è venuto in maniera naturale, in quanto ecco, il blues è il mio primo amore ed è tuttora comunque... Cioè io quando suono con la chitarra elettrica è solo blues, rock. L'evoluzione è nata semplicemente per un'esigenza, diciamo, successiva di non fare e di non essere più solamente chitarrista, no? Quindi, diciamo, per così dire, la parte passiva di una band, se vogliamo, no? Sì, esattamente, parte passiva. Nel senso chiaramente buono, e non me le vogliono i chitarristi. Tu sei chitarrista? Io sono... un'esigenza di mettersi in gioco, perché comunque, diciamo, dopo tanti anni trascorsi a fare poi questo mestiere, poi ormai sono più di 10 anni che lo faccio proprio di professione, è venuto, diciamo, il momento, no? Io chiamo sempre di tirare la linea dei conti, non si dice da noi, no? Certo. Si fa una somma delle esperienze acquisite, no? Un po' di quello che si è fatto in giro, bla bla bla, si tira la linea e si dice vediamo adesso da soli dove arriviamo. E quindi, diciamo, è mettersi in gioco in maniera, ecco, scherzosa, senza prendersi troppo sul serio, perché è una cosa che io ci tengo a dire. Non è assolutamente la pretesa di essere l'artistone del momento. Io faccio quello che a me piace, quello che mi riesce bene, perché comunque per il mio tipo di vocalità. E qui entra in gioco il discorso anglosassone. Esattamente, quindi Oasis, Beatles, tra sempre tra virgolette. Il mio tipo di vocalità rientra, diciamo, cade bene in questo genere. Se io cantassi blues, faremmo, vuol dire, la radio chiuderebbe dopo 2 giorni, perché mi sentono, ci fanno chiudere. No, quindi io cantare blues assolutamente non se ne parla proprio. Però dal blues è partito tutto. Dal blues è partito tutto, perché comunque i miei studi, quando appunto ho scelto di fare la professione, sono partiti dal blues. Certamente. Ho fatto diversi anni, insomma, ecco, di suonare blues o... tra l'Italia e anche Stati Uniti. Tu sei stato a Boston, possiamo dirlo? Austin, Texas. Come York, mai? Cosa hai trovato a Boston? Guarda, quella lì è stata un'esperienza interessante che è capitata, non dico per caso, ma quasi. È stata proprio una scelta abbastanza difficile che è successa, cioè questo fatto di scegliere mi è successo in un momento, diciamo, lavorativo e di vita in cui non ero ancora né carne né pesce, no? Un po' dovevo ancora capire se sarebbe stato il mio lavoro o no. Io all'epoca facevo un part time per mantenere comunque gli studi. Io studiavo a Ferrara, alla scuola di musica moderna, e lavoravo part time appunto per mantenermi, con un bello stipendiolo, posso dire, cioè prendevo anche bene lavorando part time, no? Però succede a tanti, a me è successo, insomma, che a un certo punto si vede che comunque i soldi, oppure anche il lavoro che era bello, belle persone, bei colleghi, però non, cioè io non ero veramente felice di questa cosa. E, è capitato un collega appunto che per una serie di vicissitudini doveva andare, e io ho fatto 2 ragionamenti, ne ho parlato all'epoca con il mio insegnante, mi fa guarda che, cioè, tu avresti tutti i numeri per farlo, no? Abbiamo fatto una richiesta alla Berklee College of Music appunto di Boston, questa scuola che è una scuola prestigiosa, insomma, tramite fax. Loro ci hanno mandato i moduli, e il mio insegnante ha compilato i moduli, mi ha fatto questo esame. E farla breve, insomma, poi sei volato in States. Ecco, una bella avventura. Una bella avventura, diciamo, che tanti mi chiedono, no? Io non è che ne parlo, come ti dicevo, a microfoni spenti prima, no? Non ho questa abitudine di farmi la bocca grossa con l'esperienza, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Questo non è importante. Questo è una cosa che serve a me per dire bene, sono qua oggi. Quello che sono oggi è frutto delle mie esperienze. Quindi è importante che lo sappia io, chiaramente. Questo proprio per evitare che le persone ti apprezzino per quello, per altre cose. Preferisco piuttosto che mi dicano alla fine di questa serata tramite la chat, ricordiamolo che noi siamo collegati in chat, fra poco ci collegheremo, attraverso Facebook. Esattamente. Ecco, quindi dicevo, è stata una scelta abbastanza difficile, perché mi è stato messo di fronte la possibilità, insomma, di fare un passo molto importante, ma contemporaneamente il lavoro, sai com'è, una specie di ultimatum. È stato un bivio molto faticoso, molto, non lo dico perché altrimenti la gente pensa, no, che tu fai le esperienze perché c'hai i soldi da spendere e puoi stare in giro. No, io sono andato via facendomi di grandi debiti, e lo dico senza nessuna vergogna. Ho dovuto scegliere, ho scelto e sono contento di aver scelto così, perché poi più che quello che ho imparato là, diciamo, da musicista, è quello che ho imparato come persona tornando a casa, una sicurezza, diciamo, in me stesso, che è appunto poi scaturita nel disco, in tutto quello che è venuto dopo, insomma, ecco. Benissimo, allora apriamo la finestra e parliamo del disco, questi sei pezzi. Poi un'altra cosa importante, tu hai fatto anche un tributo ai Quattro Baronetti, ma parliamo dopo, ne parliamo. Sì. È molto interessante anche quello. Apriamo la facciata, la finestra, come si dice a Rock Wave, col primo pezzo della scaletta, chiaramente, del disco. Lo spieghiamo dopo cosa dice. Lo spieghiamo dopo. Lo facciamo sentire. Allora ricordiamo al nostro staff, Michele Tosoni in regia. Stasera le telecamere le ha messe a posto Michele Tosoni. Il sito, www.rockwave.altervista.org. Diretta rockway.altervista.org. Siamo in diretta, quindi gli errori diretta ci stanno. rockway.altervista.org. Ci potete vedere e sentire stasera, quindi ci possono vedere in questo momento. Allora, io so che siamo in collegamento, per cui sì, sono sicuramente in ascolto tutti gli amici, insomma, se volete, quindi io non sapevo, potete anche collegarvi via web, allora, via certamente, webcam. Certamente, quindi potete vedere e sentire tutte le tue movenze. Possono vedermi proprio controllarmi. Assolutamente controllarti, quindi ringraziamo quindi lo staff, ringraziamo anche la nostra, abbiamo una redazione femminile. Dov'è? Tra i ragazzi, la Patrizia, la Silvia e la Nicoletta, sono lontane, ma ci seguono. Le ho viste prima passando. Esattamente, le ho viste prima passando. E ricordiamo anche il nostro direttore artistico, Alberto Pisco, che ha praticamente creato. Che io vorrei ringraziare perché ha creato poi il contatto. Ecco, ha creato il contatto. Partiamo, Alex, e sentiamo il primo pezzo del disco. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Everywhere Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Questo è il primo pezzo, Alex. Sì. Nel sito abbiamo scritto che si apre la finestra molto all'inglese, molto decisamente all'inglese. Qua gli strumenti suoni quasi tutti te, escluso sì. Il batterista, che chiaramente non suona esatto, la batteria. È un collega turnista di rango, comunque ti dicevo, microfoni spenti. Davide De Vito, che vorrei tra l'altro anche salutare, perché so che questa sera anche lui è collegato tramite Facebook, lo so per certo, insomma. Esatto, benissimo, questo è molto importante. Sì, sì. Ricordiamo che per vederti bisogna cliccare www.direttarockway.altervista.org, solo per vederti, chiaramente. Ho capito. Diretta rockway.altervista.org solo per vederti. Avete scusi. Tantissimi siti. Solo per vederti. Perfetto. Però per il resto è il solito sito ci normale. Ci possono sentire anche FM comunque. Quindi ritorniamo al pezzo musicale. Una bella finestra si apre in modo non potente, in modo rocchettaro. Sì, rocchettaro, elegante se vogliamo. Elegante. Atmosfere un pochino diciamo ecco proprio. Ma facciamo anche di paragoni, facciamoli pure i paragoni, non è un problema. Perché dobbiamo fare i paragoni. Sono, dire. Niente, il paragone, per esempio, con un sound, per esempio, molti lo paragonano al sound di Verve. Gruppo. Io invece lo vedo più alla Alan Parsons. Alan Parsons Project. Perché il riff, esatto, il riff che c'è sotto comunque è molto ipnotico, se avete fatto caso si ripete sempre, durante la canzone resta sempre sotto, no? Io ho preso ispirazione da Alan Parsons in realtà per fare questa come cosa. Come mai ti piace Alan Parsons? Sai, hai, le atmosfere. Ti ricordi quando produceva il primo disco, quando diceva Art Mother oppure no? Sì, ma mi ricordo più che altro anche tutti coloro che hanno seguito le orme di Alan Parsons, no? Quindi neanche nella... Ma io cito per esempio anche questo Brian Eno, no? Dire, no? Un tipo, un nome, meno da niente, è un omino piccolino, un nome molto importante. Assolutamente. Ecco il pad, che per esempio c'è sul pad, adesso sono termini tecnici nel brano. Comunque ho messo insieme tutti questi elementi, se vogliamo, un po' proprio quasi elettronici, ma sono poco elettronici, perché comunque il sound deve essere più analogico possibile, nel senso deve essere un sound vero. Però c'è questo intervento appunto di queste cosine, si sentono proprio appena appena, però ci sono, e sono chiaramente un mio omaggio, tutto il disco è un omaggio comunque al sound inglese, per cui sicuramente io non ho la pretesa di aver inventato niente di nuovo, questo sia chiaro. Però ecco, come sound chiaramente mi sono ispirato, quello senz'altro sì, ai maestri, no? A chi ha fatto scuola prima. Come mai questo tuffo nel Mersey, come mai questo tuffo nel Tamigi? Beh, proprio per un discorso che ti facevo prima, insomma, è proprio una cosa che mi viene spontanea e credibile, questa detta più che altro anche degli addetti ai lavori, finché ero in studio che registravo l'album, dove ho conosciuto un sacco di altri musicisti che hanno fatto di grandissimi lavori anche loro e tutto quanto, capisci, non ci si conosceva prima di quel momento lì e insomma vedo che le cose sono, soprattutto i complimenti sono nati in maniera spontanea, senza che nessuno abbia richiesto, no? Ma ti piace, sai, di solito io non domando mai se piace, perché comunque ripeto, io faccio questo, a chi piace va benissimo, a chi non piace va bene lo stesso, ma proprio senza nessun problema. E tu hai detto sei partito dal blues, ma ragazzi, John Mayer, Blues Baker, blues inglese al 100%, sì, c'è poco da fare. Esatto, però John Mayer aveva quella bella voce, no? Quella che quel modo, ecco, io purtroppo la mia voce era John Lennon, senti lo so, però tutta nasale. Ma anche John Lennon è partito dal blues, Sì, però il blues di John Lennon, chiaramente, con tutto il rispetto per il buon John, diciamo sì, vabbè, era l'importanza del personaggio, poi dal punto di vista ecco stilistico sappiamo tutti benissimo che comunque il blues è una musica nera, è una musica sofferente e solamente chi veramente ha sofferto può cantare blues. Sono d'accordo, le 12 battute sono sempre esatto, quelle, sono 12 battute che però hanno un peso che è micidiale ed è difficile, veramente difficile suonare un blues convincente, soprattutto per un bianco. È vero, soprattutto questo. per un bianco che sta bene, che non sa che cos'è la sofferenza. Perché ecco, questo il blues è tutto. Cioè, il blues ce lo insegnano anche B.B. King, no? Certo. Tre note, non di più, tre note. Tre però, note, sì. Tre note che sono suonate con quella, proprio quella sofferenza, quel modo, quando le tira, no? Questo si chiama bending in termine tecnico. Le tira con una rabbia che è vera. Sì, proprio si percepisce, anche uno che non suona se ne accorge di queste cose. Benissimo. Questo è il vero blues. Ricordiamo anche il nostro produttore qui. Abbiamo il nostro produttore in studio, sì, Elia Capato, che io ringrazio tantissimo, perché comunque per quanto riguarda British News è stato una colonna portantissima, insieme anche ad Activa Rete, comunque ricordiamolo che è un'associazione comunque qui della provincia di Padova che ha creduto in questo progetto e ha sostenuto comunque una buona parte. E vorrei ringraziare cameraman. Sì, il cameraman, più che cameraman, lui è proprio un videomaker. È un videomaker. È un videomaker che pensa all'aneddoto, noi ci siamo conosciuti su MySpace, credo, Massimo, vero? Più di un anno fa. Però più di un anno fa e stiamo praticamente vicini, perché io abito, beh, attualmente sto vicino a Verona, però per dire, ecco, sono di Rovigo, Lendinara, comunque della provincia di Rovigo, quindi ci sono pochissimi chilometri che ci separano. Ecco, io sono riuscito a girare mezzo mondo e non sono riuscito a venire a Padova a trovare lui. Noi ci vediamo questa sera per la prima volta. È una cosa bellissima. È una cosa molto bella, infatti io sono più emozionato, sì, per tutto comunque, anche per l'ambiente, perché l'ambiente è bellissimo, ma anche per il fatto, insomma, ecco, di avere... Guarda, mi sta riprendendo, mi sta facendo un bel... un bel primo piano. Sì, sì, lui è bravissimo comunque, un ragazzo molto in gamba, farà strada sicuramente. Decisamente farà strada, e tu hai fatto tanta strada però. Ho fatto tanti chilometri. Sì, ho fatto tanti chilometri, sì. Ma non soltanto chilometri veri e propri, anche chilometri di musica. Di musica, sì, e questo è importante. Andiamo, sì, al secondo pezzo e poi cominciamo a correre con le note. Nel vivo. Nel vivo. Certo, il secondo pezzo che hai scelto è sempre lato 2, la seconda traccia del disco. È la seconda disco. Traccia che si intitola appunto Happy Man. Poi ne parleremo, insomma, di cosa parlano questi due brani che abbiamo sentito. E poi... e poi cominciamo a suonare. Iniziamo con un tributo, diciamo, uno di questi due in versione acustica. Ecco. Perfetto. Rock Wave. L'onda del rock. SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, benissimo. Alex, mentre il pezzo andava, mi ha detto delle cose molto interessanti e adesso le allarghiamo. il discorso tra il pop ed il rock, sì. L'accordo del pop e l'accordo del pop non è semplice, è molto complicato. Io pensavo fosse molto più semplice. Sì, sì, è vero, molto. Adesso me lo spieghi, perché la gente che sente, i tuoi allievi in primis, soprattutto loro che saluto, esattamente, vogliono sapere qual è, c'è la difficoltà, il pathos, che difficoltà c'è fare un pezzo pop rispetto a un pezzo rock. Ecco, infatti è una cosa che adesso è capitato spesso, ti dicevo prima, no? Che il mio disco giustamente l'hanno sentito anche i musicisti, per cui gente comunque è nell'ambiente, nel settore. Professionista o non professionista non vuol dire niente. Cioè la parola professionista vuol dire semplicemente la differenza come partita IVA e approccio mentale, forse. Ecco, ecco. Perché io conosco professionisti che suonano meglio, scusami, non professionisti che suonano meglio di professionisti. Ne conosco, e tanti anche. Quindi ecco, la parola professionista va sempre presa con la giusta dimensione, diciamo. Comunque, ecco, appunto, tanti musicisti hanno sentito l'album di qua di là, quindi tutti quanti, sicuramente i motivetti, cioè, si è capito fino adesso, no? Io spazio dall'allegro al più serio, dall'arrabbiato allo spensierato totale, no? Perché a me va così. Che sono proprio delle sfumature che io sento di voler esprimere, no? Certo, certo. Sono praticamente come una... io li chiamo i jukebox, no? Cioè, per forza devo fare tutto quanto, no, omologato a uno stereotipo, tipo tutto serio o tutto allegro. Ma perché? Cioè, se io adesso sono allegro, va bene, va bene così. Se domani sarò incazzato nero, si può dire incazzato. Cioè, incazzato nero, domani sarà diverso. Se dovessi suonare, suonerei un brano più incazzato. Tutto lì. Certo, quindi più che dire, è un brano tenebroso, un brano sofferto. Così. Sì, esatto, è un brano più adesso, io dopo volevo, anzi fra poco ti farò sentire, vi farò sentire a tutti, insomma, la versione acustica proprio come è nata nello studio, quando appunto l'ho pensata, diciamo. E come è nato, come nasce un pezzo di Alex, come lo inventi, come lo crei, come lo tiri fuori? È una domanda che infatti è bello, perché poi ogni, diciamo, ogni musicista, ogni artista, ogni persona che comunque scrive canzoni, diciamo, no, ha ognuno il proprio modo, se dice, se vogliamo, esatto, no? Sì, il modo di perché di grazie a Dio, diciamo, ecco, la musica è una forma d'arte che in realtà, cioè, ha una grammatica, perché la grammatica c'è, le note, le armonie, eccetera eccetera, però poi c'è tutta la fantasia, cioè uno dopo questa grammatica la usa come vuole, e questa è la cosa bella, per cui le regole non esistono, non esistono in realtà vere e proprie regole, no? Io normalmente da chitarrista ho questo grosso fortuna che suonando la chitarra, insomma, riesco a farmi gli accordi, riesco a farmi poi tutto da solo, no? Di solito nasce da situazioni che io ho vissuto, che ho vissuto, se possibile, anche direttamente. Cioè, cosa vuol dire? Ti faccio un esempio. Il brano Happy Man, sì. No? È un brano molto scanzonato, sì. No? È praticamente già il titolo, chiaramente. Esatto, dici, l'uomo tutto. Felice, no? Certo. È un innamoramento da bambino, da ragazzina, no? Ho capito. La ragazzina già ti fai. È successo a tutti quanti noi, no? Certo. Le amiche, no? A 14-15 anni. La prima che ti si siede in braccio, basta, tu hai già la tua fidanzata. No? Certo, certo. Funziona così. Ecco, io ho immaginato proprio quelle cose che sono successe a quel tempo, e ci ho scritto questo brano, posso dire di getto, perché è un'esperienza vera. È una cosa vera, per cui quando io canto questo brano, non posso sembrare finto, perché l'esperienza vera, io vado con la memoria a quello che è proprio, io mentre canto proprio vedo le immagini, vedo me sulla panchina, vedo sta ragazzetta, io che pensavo che invece lei no, ecco. Le rivedo, quindi riesco a essere credibile con questo sistema. Poi tu mi chiedevi la composizione vera e propria. Esattamente. Beh, hai fatto vedere il tocco del rock e il tocco del pop. Sì, ecco, ti ho fatto un esempio, no? Sì. Tira giù le parti, quindi significa tipo cercare, no, di ti ascolti un mio brano, ma non mio, in generale, sì. Quando ascoltiamo pop soprattutto. Proviamo a tirare giù l'accordo, gli accordi, no, che fanno la canzone. Spesso e volentieri non riusciamo mai, perché c'è sempre una sfumatura che cambia, qualcosa che non... Cioè, si sente, è così, però anche no, come mai? Perché pop in realtà, non proprio è per stile, non è meno semplice di quello che la gente pensa. Cioè, non bisogna farsi ingannare dalla parola pop, che significa popolare. Esattamente, no? Popular music. Da consumo immediato, certo, se vogliamo. Ma non è vero allora. Non è vero assolutamente, soprattutto nella fase di stesura. Lo dimostra il fatto che comunque, se io adesso in generale prendessi una persona a bruciapelo, un collega professionista, dicessi tirati giù delle parti, ok? Non sarebbe così immediato come in un pezzo rock. Ti facevo l'esempio prima, no? Sì. Il rock si suona con uno stile abbastanza immediato, no? Tipo, non so, io sono incazzato, prendo un accordo, no? Di quelli che voglio, per esempio, no? E lo suono incazzato. No, sì. In questo modo proprio, diciamo, irruento. Sì, irruento. Quello che succede non importa, ci sono gli Who, vediamo, sì, gli Who. O se no i Deep Purple, Smoke on the Purple. Water. Non c'era questa preoccupazione della ricerca della pulizia sonora. No, cioè, l'importante è che arrivasse all'energia. Chiaro. No? Ecco, nel pop dobbiamo fare arrivare lo stesso un certo tipo di energia. Però è più difficile, perché non abbiamo l'accordo costruito, o meglio, non costruiamo le armonie in maniera così immediata. È tutto frutto di incastro, no? Io di solito faccio questo verso con le mani e le dita che si incrociano, no? è un incastro, cioè io faccio qualcosa che si armonizza con quello che sta facendo un'altra persona e quello di un'altra persona, e alla fine si crea quello che poi noi percepiamo. Ed è molto più difficile, perché è un lavoro proprio di squadra. Ho capito. Questa è una cosa molto interessante. È una cosa interessante che io predico in senso buono anche ai miei ragazzi, no? Gli allievi, i tuoi allievi, ma proprio perché, non perché sia una verità mia, perché è così, perché prima di me mi hanno insegnato, ma comunque è la storia che lo insegnano, non è che lo insegno io, perché io non sono nessuno, perdete. Però ecco, io scrivo così. Quindi era molto più facile suonare Led Zeppelin che non i Beatles, allora. Nel senso che, sai cosa, i Beatles, io ho un collega chitarrista che ci sta ascoltando in questo momento, Alessandro, no? Che mi accompagna in alcune esibizioni dal vivo. Lui prima di queste cose qua non suonava assolutamente. Io faccio quando faccio i miei concerti, per riempire la scaletta, faccio brani di Beatles, certo, no? Proprio sì. Per dare anche un senso a tutto quello che faccio, chiaro. Diciamo, no? Lui non aveva mai suonato. Lui è un professionista e anche molto bravo, tra l'altro. Lui non aveva mai suonato Beatles fino a quel momento. Quando ho cominciato a vedere le armonizzazioni, no, anche di brani di Lennon, lui stesso che insegna, ha detto, bisogna che insegni anche ai miei ragazzi questa cosa qua. Difficile. Per dirti, no? Cioè, non è così scontato come può sembrare, ma è proprio questo il bello. All'ascolto risulterà tutto molto semplice, immediato, arriva. Dal punto di vista compositivo c'è tutto uno sforzo che serve a fare in modo che questa cosa arrivi a te fluida, ma in realtà a me che sto creando, in maniera molto più complessa. Ed è quello il bello del lavoro del musicista, perché altrimenti, io lo dico sempre a scuola ai miei ragazzi, facciamo 3 accordi, cantiamo sopra, siamo tutti cantautori. Allora, cioè, io potevo starmene a casa, vuol dire, no? Cioè, la canzone del sole insegna. Sì, esatto. erano anche altri tempi. Sì, erano altri tempi. Bene, cominciamo. Alex, cosa dici? Io sì, vorrei farvi sentire, ecco, proprio come è nata la versione, quindi, di She's My Sin, il primo pezzo che noi abbiamo sentito, no? Un pezzo molto... parla di una donna, no? di un amore platonico per quella classica donna che già sappiamo, no? Che non potremo mai in nessun modo avere. E quindi è un sentimento chiaramente sicuramente non allegro, quindi per quello che è abbastanza, diciamo, ecco, sofferente come stile. Io vorrei proprio farvi sentire la versione acustica, proprio come quando l'ho pensata. Com'è nata. Com'è nata. E dentro appunto ci sarà quindi questo modo di suonare, sono da solo quindi stasera, per cui più rockettaro. Sarà più rocchettaro che quello che farò dopo, comunque. Va bene, ok. Va bene. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Here's me, it's everywhere. I can't fight against this hell. I feel attraction, so she asks to me to steal an apple, it's free. I'm not a hater, I cannot agree. I can pay this fee. I've never stolen, she's my sin. I've never killed, she's my sin. I've never lied, she's my sin. Do you believe? Do you believe? I can't wait to touch your skin. Hell or heaven, I'm in between. I feel attraction, so she says to me, we'll be happy, I've got the key. But I'm not stupid, I cannot agree. I can pay this fee. I've never stolen, she's my sin. I've never killed, she's my sin. I've never lied. She's my sin. Do you believe? Do you believe? Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, molto sofferta. Decisamente sofferta. Il pezzo era decisamente sofferta. Si sentiva che si ispira, cioè l'abbellimento dopo quella canzone pop è un po' diverso. Eh sì. È decisamente molto sofferta. È tesa, più... tesa, sì, sì. Quasi blues, non dico quasi, non dico blues, però blues nel senso blues della parola, cioè è blues, però cioè la sofferenza deve proprio dire. Uscire in qualche modo. Vedi, si capisce come mai c'è la sofferenza di un musicista. È perché così. Più che altro anche uno suona in questo modo, no? Tutto così incazzato, cioè arrabbiato nel senso. E dopo nasce questa canzone così bella, piacevole, accattivante, che può essere un singolo potenziale. Esatto. Poi giustamente l'arrangiamento fa tanto, non tutti i brani poi si prestano a essere tradotti nella versione acustica, no? Nel senso che chiaramente l'arrangiamento dà un'idea molto più completa di un brano, perché comunque abbiamo tante parti che incastrando si formano, diciamo, un organismo unico che si muove all'unisono. Quando siamo da soli siamo messi più in difficoltà, nel senso chiaramente ecco buono, nel senso che tutta la spinta, l'energia deve uscire direttamente da te, quindi non c'è l'aiuto di niente, di un compressore vocale, qua siamo in presa diretta. Che aiuti ci sono, Alex? Tu che... Che aiuti ci sono quando... Non ce so, ne sono, eh. Ce ne sono. Ce ne sono parecchie, perché comunque le tecnologie poi moderne permettono di fare cose che sono pazzesche, no? Anche se ti dirò, io mentre registravo l'album, che ho registrato con... posso dirlo il nome? Ma certamente. È un grandissimo tecnico del suono, Ugo Bolzoni, che ha lavorato anche con personaggi di altissimo livello, molto in gamba. Lui ha uno studio di incisione appunto a Rovigo, nella zona dove abito io, e lui a tutti i costi non ha voluto adoperare nessun tipo di filtro vocale quando io cantavo, quindi nessuna correzione, perché un'altra caratteristica appunto del Britpop è questa leggera imperfezione anche nel modo di cantare, cioè non c'è la nota esatta in ogni punto come altri generi richiedono, e questo è che ha reso, per esempio, pensiamo a Robert Smith dei Cure, sì? l'ha fatto far scuola oltremanica questo modo di cantare, e se qualcuno mi dice che è intonato gli sparo in diretta. Non è vero, non è intonato, ecco, però è Robert Cure. Esatto, però è il modo, ripeto sempre, è il modo con cui fai le cose, non è tanto, cioè lui ha combinato uno stile, sì, io posso fare tecnicamente una cosa, voglio dire, che se però non ci metto poi un po' di enfasi in quello che faccio, cioè diventa abbastanza neutro, lo chiamo io, abbastanza squallido, abbastanza, cioè squallido. Metti un francobollo su una lettera, sì, cioè tu suoni, tac, canti, come fare il compitino a casa, capisci? Cioè, sì, dopo. Ma il pop deve avere anche l'anima, c'è poco da fare. Assolutamente sì. Anche se il pop non vuol dire assolutamente nulla. No, assolutamente. Dopo, chiaramente, i luoghi comuni sono una cosa, poi chiaramente chi veramente segue musica, quindi sa distinguere, sa benissimo che comunque ogni genere comunque deve comunicare. Certo, assolutamente. Non facendo leva solamente sull'uso delle parole, quindi non so quali parole adopero, no? È facilissimo far piangere con delle parole, vuol dire, quindi proprio sull'uso anche delle note semplicemente, ma anche del modo in cui fai le cose. Semmai nessuno ha capito niente del testo, però ti vede, tipo a me, tante persone, tipo anche delle signore, dei signori 45-50 anni che per esempio non conoscono l'inglese, no? Non vengono alla fine dei concerti a farmi i complimenti perché hanno capito il testo. No, perché immagino. Hai dato un messaggio. Hanno visto, più che altro hanno visto che comunque quello che fai lo fai credendoci. Certo. A me interessa questo sostanzialmente. E non... tu hai detto, quindi ami gli strumenti vintage? Posso dire questo? Sì, sì, io ho una Fender Stratocaster. Che bella, vintage, che bella. Guai a chi la tocca, chiaramente. L'ha lasciata. Cioè, sì, si usa, chiaramente. Si usa, sì, no, uso spessissimo. Tu suoni la elettrica, chiaramente. Sì, sono un chitarrista. Io nasco come chitarrista elettrico, poi passato all'acustico. Dopo, ripeto, ecco, dipende anche sempre dai momenti, no? Non sono cose che si fanno a comando. Nel senso che è proprio un discorso di intenzione, no? Se io per esempio non ho niente da dire, no? E ti dico fammi un discorso, cosa mi dici? Niente, perché giri. Non hai niente da dirmi. Giri, ma alla fine non mi hai detto niente. È certo. Sei sicuramente molto più incisivo se dici due parole al momento giusto. E io la vedo così anche quando si suona. Sai quante volte mi erano anche gli amici, dai, suonaci qualcosa. E alle volte non è che dico no per non suonare, perché non voglio suonare. Perché se in quel momento non ho niente da dire, non sarei per niente credibile, cioè suonerei alla jukebox, hai capito? A me non interessa assolutamente far così, diciamo. Quando uno sale sul palco deve qualcosa da dire, allora. Assolutamente. Sul palco sì. C'è poco da fare. Sì, c'è tutta un'operazione che io faccio prima proprio di autocarica. Cioè, cosa vuol dire? Ma io ho un ottimo rapporto con i musicisti che mi seguono quando faccio i tour di concerti, diciamo, fuori provincia, no? Anche in provincia, che cambiano, non sono mai sempre quelli. Io ho un ottimo rapporto perché, sì, il lato professionale è importante, perché dopo la troppa amicizia poi sfocia, sai, nel fatto, dopo diventa un problema, diventa ingestibile, soprattutto se la professione, perché l'amicizia è una cosa. La professione è un'altra. Mi è successo, insomma, succedono dei casi poi spiacevoli e poi è brutto per delle stupidaggini, ecco, perdere queste cose. Per cui, ecco, c'è una giusta distanza fra me e chi collabora con me, che però io colmo chiaramente col fatto di ridiamo come dei matti noi prima di suonare per qualsiasi cosa, e arriviamo totalmente rilassati in uno stato d'animo tema che non abbiamo proprio voglia di scambiarci uno con l'altro le cose. La prova, nessuno di tanti concerti che abbiamo fatto, poi sul mio Facebook ci sono anche delle registrazioni, si sentono anche le persone, si sente, insomma, o almeno dicono che si sente. Certamente. Io giustamente non faccio mai, cioè, però, auto, come si dice, non faccio le mie lodi, sì, da solo, però ecco, se la gente me lo dice qualcosa sarà vero, insomma. Chiaro. 23:33, e allora facciamo un altro pezzo dal vivo, cosa dici, Alex? Io quasi quasi, sì, posso dirlo? Ma certamente che lo puoi mi dire. Mi piacerebbe presentarti, perché io questa sera è in esclusiva, come ti dicevo prima. Sì, l'hai scritto in macchina. L'ho scritto in diceva macchina. L'ho scritto amico. In macchina venendo a Padova. Come Battisti e Mogol. Sì, sì, sì. Ti ricordi quando all'autogrill. Esattamente, quando Battisti scriveva un testo, poi lo pensava, e Mogol era là vicino. 10 chilometri, tac. Tac, era fatto. Quattro accordi. Era tutto fatto. Sono tre brani nuovi, proprio nuovi, talmente nuovi che per dirti, guarda, neanche i musicisti che suonano con me ancora lo sanno che ci sono questi nuovi brani da preparare per i prossimi concerti. Per il prossimo concerto. Io perché ne approfitto per presentarli qua da voi, qui a Blu Radio Veneto, perché essendo proprio in acustico, quindi essendo io con la voce in acustico, sono proprio come sono nati qualche giorno fa. E vogliamo anche dire di cosa parlano eventualmente? Ecco, sì, facciamolo con il primo. Cominciamo con il primo. Che cosa parla il primo pezzo? Allora, io il primo pezzo che vorrei fare è un pezzo che si chiama, l'ho intitolato Judy's Love. No? Judy è un nome femminile che io, certo, chiaramente ho preso da Jude, no? un omaggio chiaramente. Sempre loro, che bene o male vengono. In qualche modo, comunque, entrano sempre nella mia vita. Che era un singolo fuori dall'album, quello là, mi pare. Cosa? Era un singolo, è stato un singolo proposto fuori dall'album, poi è stato messo su una raccolta. Non è propriamente su un album, mi pare, Jude dei Beatles. Guarda, ti direi una balla perché non me lo ricordo. Mi pare che sia stato fuori dall'album, è stato riproposto dopo, perché non so per quale motivo George Martin ha deciso di non proporlo nella scaletta dell'album. L'ultimo periodo andavano molto poco d'accordo. Però erano loro. Erano sempre loro. Ritorniamo al tuo pezzo. Questo pezzo qua è un pezzo che, come ti dicevo prima, il nostro qua è un pezzo molto più allegro, ok? Un po' più a squarciagola, se vogliamo, no? E parla proprio di una ragazza bruttina. Ragazza bruttina, un tema, diciamo, che, beh, insomma, non si parla mai, non ho mai sentito parlare di canzoni che parlano di ragazze brutte. Ragazze bruttine nei che... video, di ragazze belle, non ho mai visto video con ragazze brutte, no? Ce ne vedono poche, per dire, no? Ma le ragazze bruttine che hanno fatto 8 milioni di copie ce ne sono di recente, no? Anche se poi, tra l'altro, il bello e brutto è abbastanza soggettivo. Esattamente. No? È abbastanza, basta avere, diciamolo, più che altro per le ascoltatrici, che altrimenti, come le ragazze brutte, a chi ti riferisci, no? Basta avere la voce, anche se non c'entra assolutamente nulla. Ok, allora questo è il tema. Sì, il tema, appunto, questa è la ragazza, parla di questa ragazza bruttina, ok? La ragazza brutta che si chiama appunto Judy di nome. Notevolmente le ragazze bruttine hanno questo carattere che è proprio per autodifesa, no? Tendono a fare una specie di barriera col mondo esterno, quindi non parlano male, parlano poco, sono scorbutiche, no? Però in realtà dentro, no, non sono così. Infatti il ritornello, lei dice, no, il ritornello è lei che canta in prima persona, no? Come? Lei è innamorata di questo ragazzo, però chiaramente questo ragazzo che neanche se la fila, si dice, no, i giovani dicono neanche se la fila, non interessa, insomma, diciamo, è abbastanza, passa inosservata, no? E lei appunto nutre questo sentimento che però non può dire. Allora questo ritornello proprio dice, io mi chiamo Giulio, mi piacerebbe dirtelo, no? E spero che un giorno in qualche modo mi darai un'occhiata, che mi guarderai, almeno quello, no? È un tema che ho trovato molto carino, perché comunque è una canzone che io faccio in maniera abbastanza allegra, per dirti, no? L'ho trovato carino e suona proprio beatlesiana questa qui. Bellissimo, bellissimo. Rock Wave. l'onda del rock. A one, a two, a three, a four. She's not a girl too much beautiful. She's not the girl that you wanna know. She's just a girl, she's just a girl. She loves the boy at the second floor. She works down in the corner shop. She's just a girl, she's just a girl. My name is Judy, she wants to say, I live in your shadow and wear the day. Will you look at me? My name is Judy, she wants to say, I live in your shadow and wear the day. Will you look at me? He will never know. He will never knows. He will never knows. It's alright, she thinks why she walks alone. She doesn't want to be as she was before. She's just a girl, she's just a girl. She's called the boy at the second floor. She's drunk as she's never been before. She's just a girl, she's just a girl. My name is Judy, she wants to say, I live in your shadow and wear the day. Will you look at me? Yeah. My name is Judy, she wants to say, I live in your shadow and wear the day. Will you look at me? Yeah. No. It will never knows. It will never knows. It will never knows. You will never know. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ok. Ho pensato una cosa mentre il pezzo andava, Alex. Adesso ti dico che cosa. Ho pensato ai Kings. Sì, è vero. Molto ai King, molto a Ray Davies e molto alla campagna inglese. Loro erano cattivissimi su certe cose. Certo. Mi ricordo un grande album sulla caduta dell'impero inglese. E i Kings sono molto, io li ho molto amati, perché i Kings è un gruppo contemporaneo ai Beatles, 63 tutti e due, però Ray Davies era uno scrittore con una penna molto forbita. Sì. Beh, qua diciamo tra le ispirazioni chiaramente ci sono anche loro. Sì, perché io ho visto la campagna inglese in questo momento. Questo modo sgraziato. Ma c'è anche, non so se tu ti ricordi, gli Herman Hermits. Certo che mi ricordo. Perdete, no, questo modo di suonare al limite tra il folk, per così dire, no? Molto. Esattamente. Ecco, chiaramente il genere folk ha dei canoni diversi, no? Però questo modo di suonare molto si chiama strumming, no? Senza tanto pensare, più che altro, no? Che bello. Hai citato il folk. Il folk è un amore mio personale fortissimo. Io ricordo un album capolavoro, non so se sei d'accordo, si chiama John Barleycorn Must Die, dei Traffic. I Traffic hanno fatto delle cose meravigliose, ma John Barleycorn Must Die è un pezzo folk, assolutamente folk, quello che è, cioè, è un pezzo di una tradizione popolare dei famosi, delle famose storie di Child, sai, i famosi racconti di Child, le famose perle di Child. Il folk che è intriso alla musica inglese, c'è poco da fare. È un connubio importante. Sì, perché se tu pensi che comunque nel periodo in cui, appunto, io, citando Beatles, ma citiamo anche tantissimi altri, no? Certo. Vivendo a Liverpool, quindi voglio dire un porto di navi, negli Stati Uniti arrivavano le navi con i dischi, è chiaro, i marinai chiaro. Compravano, quindi è arrivata molto prima del Città all'Oceano dei Porti, la musica d'oltreoceano, ok? Che poi è stata chiaramente codificata in base, o meglio, codificata, è stata, tra virgolette, riproposta, rivista, secondo quella che è la tradizione musicale comunque nostra occidentale, no? E comunque col blues, diciamo, non ha niente a che fare. No, assolutamente, assolutamente no. Lo sappiamo. Poi le due cose chiaramente si sono incontrate, si sono fuse insieme, ok? E da qui sono nati i capolavori. Se ci pensiamo, gran parte delle band che comunque hanno fatto la storia sono tutte inglesi. Cioè, non faccio fatica a pensare band non inglesi. Parliamo che hanno fatto la storia, proprio dire. Perché se mi viene in mente Led Zeppelin, mi viene in mente subito Deep Purple, Black Sabbath. Certo. E più contemporaneamente Iron Maiden, mi viene in mente i Muse, mi viene in mente tutta, sono tutti assolutamente tantissimi. 90 persone che Eric Clapton, cioè, possiamo metterci dire. Anche in America, se mi è consentito, la band che non ha fatto la storia, però i Birds sì. I Birds, esatto. I Birds, cioè, ci sono cose mechine. Sì. Questo senza nulla togliere, ci mancherebbe, cioè, negli USA chiaramente la tradizione musicale è di tutto rispetto. Io penso a uno dei miei preferiti, Neil Young, canadese. È canadese, cioè, i Buffalo Springfield, esatto, allora, quindi quello che Crosby, è quel Steel, giorno famoso che ha attraversato il ponte ed è entrato dal Canada agli Stati Uniti e poi ha conosciuto. Ecco, non si può fare a meno di pensare a queste cose. No, però tu, partendo, siamo partiti dai Kings di Ray Davis. Il pezzo chiaramente a me ricorda moltissimo questo, sì, sì. Però è bello, però è meno sofferto del precedente. Infatti questo qui è più gioioso. È più gioioso. Perché comunque è una specie di rassegnazione, cioè quando tu sai che più di così non puoi, non fare, puoi fare, cosa devi fare? Ti rassegni e ci ridi su, no? È un po' più gioioso. Sì. E con l'elettrica come lo fai questo? Che intenzione, che idea? Ma questo qua sarà, guarda, questo qua comunque per come, proprio per il tipo di sonorità che senti, sarà sempre comunque molto allegro, voglio dire, ho sempre suonato in maniera molto allegra. Guarda, lo sentirete, spero presto, perché la mia intenzione è di andare in studio a inciderlo, diciamo, quindi col suo arrangiamento nella versione come si dice, nella versione da disco, sì. La versione da CD prima possibile, chiaramente sarà molto fedele a quello che avete sentito adesso, abbastanza fedele. Poi strumentalmente ci sono diverse idee, chiaramente poi devo provarle prima, no? Io di solito registro i provini da solo, me li faccio io proprio perché così valuto le varie soluzioni, perché in testa, no, io ho tutto ben chiaro come dovrebbe essere, no? Certo, certo. Poi chiaramente quando suona poi la scelta anche del tipo di strumento, e questo fa parte appunto dell'arrangiamento, va fatto in funzione di quello che è tutta la canzone, non solamente di quello che piace a noi, chiaramente. Quindi vedremo, insomma. Decisamente. Adesso io proporrei questo, di farti, facciamo sentire un pezzo da disco, chiaramente da disco. L'altra traccia, che traccia vuoi scegliere da disco? Ma io direi possiamo far sentire Love Beatles Song, che è la traccia numero? Dunque, Love Beatles Song dovrebbe essere la numero 4. Numero 4, che è un pezzo che ho scelto io per mettere su un mese consecutivo e non solo acustico. Per me è piaciuta molto, al di là del titolo, beatlesiano convinto come io sono. Ma cosa vuol dire? Vuol dire assolutamente niente. È una traccia creata e sviluppata e costruita da Alex. Esatto. E quello è importante. Anche il pezzo di per sé, diciamo, è un omaggio per modo di dire, no? Sì, è un omaggio per modo di dire. È un omaggio a quello che faccio. Okay. Chiaro. Anche l'effetto vocale che sentite, questa specie di ribattuto, no? È tutto un omaggio a Lennon nel modo di suonare, questo uso degli accordi con la quinta aumentata, quindi sono tutti quanti termini, voglio dire, adesso bello citare i termini, accordi con la quinta aumentata, poi, tipici, no? Ci sono tutti i ragazzi che ti sentono, i tuoi ragazzi, sì, quindi. Sì, beh, certo, sì, sì, loro lo sanno. Quindi ecco, cioè, è tutto un omaggio praticamente, okay? Chiaramente ecco, nella semplicità tipica di loro. Semplicità voglio dire dal punto di vista di quello che è l'ascolto. Poi come ripeto, abbiamo detto anche prima, la semplicità voglio dire poi invece in realtà compositiva è diversa, molto difficile. Bisogna comunque avere delle cognizioni che comunque ti aiutano a dare un effetto che tu vuoi fare. E il ritornello è tutto un coro, nell'idea principale non doveva esserci neanche una parola. Ah, ok. Tutto un coro. Tutto, no? Un coro. Tipo la All Together, sì. No? Proprio perché è un omaggio. Certo. Non certo. È un pezzo di dire ma questo qua è un pezzo da classifica, non interessa nessuno la classifica. Questo è un pezzo, è un omaggio. E basta. Ok, adesso lo sentiamo assieme. Rock Wave, l'onda del rock. Fabulous for Con la maglietta della radio, una bella cosa, si vede bene, è una bella cosa. Una diretta rockwave.altervista.org. È bello vedere Alex che fa le spiegazioni, suona in diretta, fa vedere come suonano gli accordi, sì, una bella cosa secondo me, Alex. L'accordo rock, fondamentalmente rock, Smoke on the Water, tutto quello che vuoi, l'accordo pop. Diverso. C'è la differenza proprio, soprattutto chiaramente quello che è proprio l'intenzione, si chiama musicalmente proprio quello che devo fare, no? Cioè se io devo suonare qualcosa di tranquillo, la colori più blues, più si sente la differenza, ci faccio Young dipendente. bello è interessante capire, secondo me. Sì, allora, ampliamo l'orizzonte. Questo è un pezzo che aveva nel titolo di Beatles, ma non era un pezzo dei Beatles. No, era assolutamente. Non neanche lontanamente ispirato. No, era solamente il nome. È il nome, come tu hai detto. Il nome Judy, appunto, significa Giuditta, poi è un nome strano. Mi è piaciuto questo nome perché musicalmente suonava bene. Esattamente. Solo per questo motivo. E avevi detto che hai scritto dei pezzi proprio di recente. Sì. Ultimo lo stavi finendo in macchina quando sei arrivato. Ancora? No, l'autogrill. È un autogrill, sì. Beh, nel percorso, venire qua. Sì. È cosa molto bella. Quindi vuol dire che hai idee in continuazione. No, ma non è questo qua. No, è una buttata. È una battuta. Detto qua il regista, cioè, figurati. Però le idee ti vengono sempre per suonare. Sì. Ma infatti io di solito uso, soprattutto quando sono in giro, portarmi sempre dietro, ce l'ho anche lì dentro nella mia borsa, un lettorino MP3 che registra. E quando ho delle idee... Via. Registriamo e dopo Li lasci là. Sì, faccio tutto quanto, una specie di archivio, una cartella, progetti da sviluppare e dopo a distanza di tempo ascolto se vale la pena, se non vale la pena, quello che vale la pena insomma. E come nasce da un pezzo di qualche secondo un progetto, un pezzo, un disco, una canzone? Questo è già una cosa più complessa perché comunque si corre il rischio chiaramente di dire quello che succede poi a spesso a chi non ha proprio ben chiaro insomma. Può essere una canzone può essere tutta in una frase chiave, no? Sì. C'è una frase chiave che proprio ti viene in mente, poi in mente questa frase che ti piace. Okay. Sembra anche già con un'idea di qualche accordino sotto. Però la canzone non è fatta solamente da quella frase lì. No, esattamente. Quindi poi ci dobbiamo legare assolutamente a qualcos'altro, voglio dire, no? Che abbia senso quello che stiamo dicendo in quel momento. Ed è proprio questa la parte più difficile, cioè fare in maniera di creare tutta una struttura che stia in piedi e che non dia l'idea di due cose diverse. Perché altrimenti il rischio che si corre, io lo sento, soprattutto nelle giovani produzioni, no? Un ritornello bellissimo, che però con la strofa, per esempio, che è la parte diversa dal ritornello, meno male, insomma, un po' tutti gli ascoltatori. Strofa e ritornello. Non sapranno, no? Non si lega proprio per nulla. Capisci? Ho capito. E quindi come sentire due canzoni in una? Non deve essere così. No, non dovrebbe. No, più che altro non è, diciamo, non deve, perché comunque i canoni, diciamo, sono quelli radiofonici, impongono determinate cose, no? Ma di questo è proprio per dare un senso al discorso, no? È come che adesso parliamo di Formula 1 e di punto in bianco, ti parlo di chitarre. Ho capito. O parliamo di biciclette, o parliamo di chitarre, però facciamo un discorso che sia tutto legato. Certo, certo, ho capito, ecco, capito. Anche se qui il canone, se parli di punto di vista dei tempi, non esiste, che Rockway non c'è tempo. Cioè, se un pezzo dura 7 minuti e basta. Ah, sì? Non si taglia assolutamente nulla, questa è la caratteristica. Infatti il prossimo è tutto roba abbastanza lungo. Benissimo. Allora, il prossimo che cosa suoniamo, Alex? Il prossimo pezzo è sempre un pezzo di quelli che quelli voglio, nuovi. Voglio proprio testarli qui attraverso la radio. È un pezzo di quelli nuovi, un pezzo un po' più introspettivo, se vogliamo. Non è arrabbiato, proprio è riflessivo. Riflessivo, quindi con i giusti momenti, quindi di introspezione, con il giusto momento di passami il termine, sfuriata. Sì. Nel senso buono, però, cioè una sfuriata nel senso che buttare fuori quello che è il concetto, che è il ritornello, che sono due parole. Certo. Find it. Cercalo. Cercalo, cercalo. Devi cercarle quello che stai così agoniando, no? È un testo abbastanza personale questo qui, ti dico la verità. Sono delle frasi molto semplici. Allora i miei testi si dividono, cioè io li faccio in diversi modi. Alcuni testi sono tutta una storia, che ha un inizio, il ritornello, quindi che spiega quello che io voglio dire, e poi abbiamo il proseguo della storia e poi la chiusura. Normalmente, certo. Quindi chiaramente il concetto è abbastanza lungo. Nel caso però di cose che vengono... di cose personali, quindi quando sono sentimenti personali, come la rabbia, robe così, no? Quando c'è bisogno di buttarle fuori, non è che serva molto a una persona spiegare quali sono i motivi, serve far capire che sei arrabbiato e basta. E quindi qua chiaramente ho scelto meno parole, è più, è un po' più, ecco, quello che sarà poi l'arrangiamento definitivo del prossimo album sarà molto un pezzo abbastanza potente. Sì, okay. Sì, benissimo, lo sentiamo adesso. Rock Wave, l'onda del rock. In my mind, there is something I can't explain. Tonight, all I want is turn off my brain. Could you let me alone? I don't want you to call. In my mind, there is nothing I can explain. Tonight, all I want is turn off my brain. Could you let me alone? I don't want you to call. Do you feel alright? When your star don't shine, you must find it. Yeah, find it. Shut up, I don't care what you wanna say. Go away, it's not the place where I wanna stay. Could you let me alone? I don't want you to call. Do you feel alright? When your star don't shine, you must find it. Yeah, find it. find it, yeah, find it. Do you feel alright? When your star don't shine, you must find it. Yeah, find it. Find it. Yeah, find it. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Tutto bene? Benissimo, benissimo Alex, non vi preoccupate, non finisce qua a mezzanotte, andiamo avanti, stasera siamo partiti un po' in ritardo, via la partita del Cittadella, quindi andiamo avanti, andiamo, oltrepassiamo la mezzanotte, con molto gusto, che i pezzi di Alex sono totalmente nuovi, nuovissimi, quindi testati per la prima volta sì, qua. Sì, sì, proprio qua in qui in radio, è una cosa, un grande onore per noi. Ho letto un articolo sul giornale e parla del regista Stefano Bertelli, che ha anche curato la copertina del disco. Sì, esatto, Stefano, che innanzitutto è un grandissimo amico, lui, Riccardo, il suo assistente e tutta quanta, diciamo, la combricola, è un grandissimo amico, nonché un gran regista, come regista molto noto a livello proprio nazionale italiano, che si occupa di videoclip per, esatto, diversi artisti, insomma, ecco. Sì, lui è curato perché noi alla fine collaboriamo insieme su tantissime cose, anche in tanti progetti, in tantissime cose che facciamo insieme. E per esempio, ecco, nel mio caso la copertina, anche il mio video prossimamente sarà curato da lui. Sono già usciti degli altri articoli che parlavano appunto di casting per appunto cercare comparsa per questo video, che probabilmente faremo in settembre. Che pezzo sarà? Il pezzo sarà proprio She's My Sin, la versione radio edit, che è completamente rimasterizzata, che stiamo appunto rivedendo proprio per migliorare sempre di più quello che comunque è anche il sound, perché giustamente come dicevo prima, nessuno ha la pretesa di dire benissimo, questo qua è il prodotto finito, a posto. Io chiaramente cerco sempre di migliorare più che posso, e si migliora chiaramente ascoltando il disco dopo un anno ormai, perché è un anno che è fuori, che è uscito, diciamo, che è uscito e tutto quanto. Ha bisogno di essere rinfrescato, e quindi chiaramente cogliamo anche l'occasione per crearci su un video con la produzione, che in quanto lui giustamente collaboriamo strettamente. Per quando hai pensato, Alex, di fare questo? Quanto tempo hai pensato di fare questo disco, finalmente di uscire questo disco dopo tanti concerti che hai fatto in giro per l'Italia e non soltanto in Italia? Perché è passato un bel po' di tempo, perché le idee erano in cantiere da un bel pezzo, no? Però è come l'esempio di questi brani che sto facendo in questo momento, no? Semmai in arrangiamento, quando saranno sull'album, saranno diversi da così, non lo so, cioè, ci vuole del tempo perché maturino. Io questa sera li ho presentati tra virgolette come si dice, tipo beta test, sì, no? Ecco, una cosa così, senza nessuna presunzione di dire questo sarà il prossimo. Questa qua è l'idea dei prossimi, sono chiaramente 99% così, però io stesso devo capire poi chiaramente quando è il momento di fare l'album, quindi un prodotto comunque che è una traccia che resta, poi resterà, perché comunque se fra 5.000 anni troveranno un CD sepolto, la cosa comunque resterà. Chiaramente, quindi, sì. È sempre il caso di pensarci bene, anche perché comunque il produttore adesso è scappato, è già visto. Ma come collaborate tra il produttore? Cioè, tu hai deciso di fare un pezzo così, il produttore, fai sentire il produttore, lui dice ok, sì, giustamente valuta, non è che apprende così, voglio dire, non è che anche perché produrre comunque dei costi economici che sono anche abbastanza rilevanti, parliamo di produzioni come quella che hai in mano, per dirti, no? Quindi a parte il discorso CI, proprio il discorso stampa, il discorso proprio musicale, personaggi coinvolti, tecnologie coinvolte, la prestigiosità anche dello studio cui si registra, quindi tutto chiaramente ha dei costi abbastanza alti. E ovvio che poi con i tempi che corrono nessuno butta via i soldi così, cioè nessuno va a investire, voglio dire, anche perché ripeto, io questa cosa che sto facendo la faccio per me, non ho la pretesa di dire bene, vado, la faccio praticamente da solo, con l'aiuto di altre persone sicuramente, però da solo, che non è che deve avere una direzione finalizzata al Festival di Sanremo, per esempio. È finalizzata che io vado a suonare fuori, le canto perché ho voglia di cantarle, le volte non ho voglia di cantarle, punto, è finalizzata questa cosa. Per cui chiaramente dal punto di vista delle major così, sicuramente, vuol dire, anche perché i contatti comunque ci sono, certo, e tanti mi chiedono, ma come, hai i contatti, non sei ancora, beh, domandati, io ho quasi 40 anni, fra 4 anni, insomma, cosa vuoi che mi interessi a me 36 anni, vuol dire, a fare cosa, con la magliettina stretta, vuol dire, a fare in TV, cioè Non mi interessa. Però se ti chiedessero, fai il Festival di Sanremo? Se mi chiedessero, non sono ipocrita, direi di sì. È chiaro, chiaro, certo, chiaro che direi di sì. Però diciamo che il lavoro non è finalizzato, cioè non è che tutta la mia vita è improntata sul fatto di dire speriamo che un giorno mi chiami, non mi noti, no? Io faccio, propongo di qua di là, poi ti ripeto con uno spirito puramente proprio, cioè con la massima tranquillità. Quindi insomma, prima la musica, poi tutto il prima resto. La musica, esatto, prima la musica che mi piace. Chiaro. Che io poi propongo, chiaramente è chiaro che se piace sono contento. A proposito di musica, tu hai fatto un tributo ai Beatles, facciamo sì. un pezzo dei Beatles adesso, ce la fai? Vuoi che facciamo un pezzo di un Beatles? Un pezzo solo dei Beatles, a tuo piacimento, quello che vuoi. Lo so che ti ho scordinato la scaletta. No, sto pensando a quello che potrebbe rendere bene chitarristicamente. Quello che vuoi, a tuo piacimento. Facciamo un intero, tutti insieme cantiamo? No, meglio che io non sono capace di cantare, meglio che... Solo te sei capace di cantare, quindi non so, il nostro video meglio se sei capace di cantare. Possiamo fare... facciamo un pezzettino. Un pezzettino, un pezzo, quello che vuoi. Vediamo. Mi viene in mente così un pezzo che a me piace molto fare dal vivo, perché chiaramente dal vivo è tutt'altra è un'altra roba. Ho chi mi supporta, qua sono certo. da solo, quindi io faccio una cosa, ne faccio un'altra. E io stavo pensando a Norwegian Wood. Ah, che bella, che bella, bellissima. Un pezzo in sei ottavi che adesso stavo pensando al momento. Come posso... Non è molto caldo stasera, quindi potrebbe no, andare bene. No, si sta bene. Deve andare bene. In sei ottavi. One, two, three, one, two, three. No, no, no, no. I won't sell the girl, or should I stay? She won't sell me. She showed me a room, isn't it good? A Norwegian wood. A Norwegian wood. A Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I look around and I've noticed there wasn't a chair. There wasn't a chair. And when I'm awoke I was alone, this bird has flown. So I lit the fire, isn't it good? Norwegian wood. A Norwegian wood. A Norwegian wood. A Norwegian wood. A Norwegian wood. Mettiamoci un coro sbagliato. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, mi sono... Perché te l'ho chiesto? Perché chiaramente... Provisata proprio il momento. È bello che sia così. Era qui, è così. Qualche sì, cosa... Ma infatti è bello così proprio perché è come essere a casa di amici, no? Appunto. Ma mi sentite come faresti? Ah, appunto. E poi il discorso è che nel 2009 hai pubblicato Alex Birthplace The Beatles, praticamente. Sì, quello sì, è sì, il motivo sì. anche questo. Sì, esatto, sì, è diciamo una... Sette tracce sono. Sono sette tracce, sì. Sono... Ecco lì proprio da solo. Voce, chitarra, poi ci sono anche delle percussioni. Che però io ho fatto sempre con la chitarra, cioè ho imitato il suono della batteria percutendo la chitarra. One man band, assolutamente. Sì, sì, proprio da solo, perché chiaramente sovraincidendo i vari strati, sono tre sovraincisioni, tre overdub. E sostanzialmente le ho reinterpretate, cioè ho preso chiaramente la struttura originale per forza, chiaro. Ma mi viene in mente per esempio Help, il pezzo Help che io ho trasformato completamente in qualcosa di diverso. Quelli che sono collegati su Facebook possono andarselo a sentire comunque, lì c'è registrato bene perché rende bene con, proprio con questa atmosfera che ho creato abbastanza angosciosa, è il contrario perché è proprio dentro lo spirito della canzone Help, no? Una richiesta d'aiuto. Di aiuto, esattamente. Loro la cantano allegramente ma non allegro per prendersi in giro. Chiaramente, un singolo. L'ho proprio interpretato in maniera molto angosciosa, molto cupa se vogliamo, no? Proprio da Britpop, diciamo di quelli, cito i Verve, mi viene in mente subito quello. Per ti piacciono molto i Verve? Ma non, guarda, non più di tanto. Non più di tanto. No. Bohemia Symphony. C'è un pezzo solo che io faccio da vivo. Loro. Io ricordo sempre quel pezzo che loro hanno scritto che ha dovuto pagare i diritti a Mick Jagger e Holland. Bittersweet Symphony. Che è il primo produttore dei Rolling. Un sacco di soldi portati nelle casse dei Rolling. Cioè non, non so come io ho posto loro, per fortuna che poi hanno comunque la carriera è andata avanti, sì, la carità, però sì, adesso cose. Si sono sciolti, però penso se fosse stata, voglio dire, l'unica occasione di una band emergente di poter fare qualcosa lì, proprio... È bello che era una piccola traccia, una piccolissima traccia se non sbaglio era la sessione d'archi, sì, la sessione, solo la sessione d'archi, però d'archi. Solamente quella sessione d'archi ha fatto in modo che si configurasse il plagio, esattamente. E quindi vabbè, cose che capitano ai musicisti, queste robe. Infatti questa è una ricerca che io faccio spesso, perché è una cosa che viene normale, soprattutto... Allora, io ho un proverbio, sì, cambio un attimo discorso, che dice che nessuno è profeta in patria. È vero, perché tutti gli amici che ti hanno visto crescere, bene o male, così, non è che stanno lì, ma sempre questo modo di vederti un po' come l'amicone del bar, no, che suonaccia, certo, così, e in qualche modo. Io quando vado a scrivere qualcosa, per dire dei brani, no? Certo. Tutti quanti questi miei amici, ma sai, questo qua assomiglia a quello, questo assomiglia a quello là, questo assomiglia a quello là. E dico, ragazzi, state attenti a una cosa molto importante. Allora, partiamo dal fondamento che comunque i giri armonici sono pochi, non sono questo granché, diciamo, che possiamo variare quanto vogliamo, ma sostanzialmente cadiamo sempre lì, prima cosa. Poi, siccome i brani sono tutti depositati SIAE, dopo il pezzo, se ci fosse stato un plagio con la fame di soldi che c'è oggi, avrei avuto a casa subito. Sì, hai capito? Chiaro. In realtà le strutture ci possono assomigliare, ma se ci mettessi, chiaramente adesso non lo voglio fare perché in radio non ci stiamo divertendo, adesso non siamo qua che stiamo parlando di, per carità, concetti importanti, però per capire se c'è plagio, perché un conto dire assomiglia, ma tutto assomiglia a tutto, se per quello. C'è la mia canzone Love Beatles, l'altro pezzo si chiama Happy Man, il mio, sì, pezzo. No? Ha un inizio che è una progressione tipicamente, no? Che sentiamo spessissimo in tantissimi brani, non solamente pop inglese, per esempio, perché anche Irene Grandi, dicendolo, fa la stessa cosa, ma però cambia tutto il resto. Chiaro, chiaro. Quindi non è assolutamente, a parte che io ormai ho imparato... E cosa avrà detto George Harrison quando ha visto che She's Fine non era My Sweet Lord? Cosa avrà detto? Chiaramente poi ti ripeto, milioni di dollari che ha dovuto pagare. Se in questo momento da qualche altra parte del mondo c'è qualcuno che sta facendo più o meno le stesse cose che sto facendo io, oppure io sto facendo quelle, certo, che sto facendo, certo, certo. Questo non lo possiamo sapere. Quindi io sicuramente da cantautore, poi anche iscritto SIA, è chiaro che ci metto sempre la buona fede. Sarebbe da pazzi andare chiaro, a fare una cosa, chiaro, da copiare 100%. E pubblicare una cosa, certo, diciamo, certo, per cui... sì. Se assomiglia, beh, meglio, vuol dire meglio che così. A me non interessa, c'è importante che sia bello, voglio dire. È importante che sia bello. Sì, dopo, chiaramente, se è uguale, no. Però. Beh, insomma. Visto che è bello, abbiamo ancora un po' di tempo, suoniamo, Alex. Sì, dunque... hai suonato due pezzi assolutamente, sì, nuovi. Facciamo il terzo pezzo. Sì, facciamo il terzo pezzo. The Feeling Song, la canzone di sentimenti. Bene. Anche questo qua, abbastanza uno sfogo, con un ritornello che passa molto più in sordina. Normalmente il ritornello è la parte che dovrebbe emergere in una canzone. Nel mio caso il ritornello è la riflessione che se ne sta proprio... un po' basso. Quindi quando parliamo di stravolgere i canoni, non stravolto niente. Però sostanzialmente, ecco, se qualcuno si chiedesse come mai, è per questo motivo. Perfetto. La riflessione è il ritornello. Rock Wave, l'onda del rock. I don't care if you don't wanna see me, yeah. I don't care if you don't wanna love me. Love you way to be in my life. When all the people try to get out, I'll never be the man you are dreaming. Oh, can't you see the pain still I'm feeling? I love you way to be in my life. When all the people try to get out and try to get out, Yeah, my soul and my soul and my soul will burn forever. Yeah, my soul and my soul and my soul will burn forever. Yeah, my soul, my soul, my soul are burning forever. I don't care if you don't wanna love me. I don't care, cause I don't wanna love you. I love you with to be in my life. When all the people try to get out, I try to get out. Yeah, my soul, yeah, my soul, yeah, my soul are burning forever. Yeah, my soul, yeah, my soul, yeah, my soul we're burning forever. And my soul, yeah, my soul, yeah, my soul we're burning forever. Yeah, my soul, my soul, my soul, we're burning forever. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Alex, questa è una ballad al 100%. Sì. Che bella, la ballada mi piace, sì, particolarmente, sì. Io l'ho sentita così, abbastanza, come una, sì, sì, sì, infatti è, senti, abbastanza ripetitiva, molto... Sì, ma è un ripetitivo, bello, sì, sì, ripetitivo. Ma infatti è proprio il concetto, è questo, il concetto. Qua, perché per fare in modo che un concetto, che una cosa entri in testa, sì, alle volte bisogna ripeterla più volte, no? Esattamente. Infatti mi piace poco in questo tipo di approccio di scrittura, tipo quelle ballad o questo genere dove devo comunicare qualcosa di immediato, mi piace poco girare intorno alle parole, perché altrimenti si perde, certo, il senso del discorso. Quindi nel prossimo album soprattutto saranno, i testi saranno molto scarni, saranno molte frasi che si ripetono, ma il concetto è questo, non è perché uno non ha voglia di stare a scrivere altre cose, proprio perché io voglio che questo concetto sia quello che alla fine resti, cioè alla fine ascolta la canzone e dice ma bella o non bella, non importa, però quello che ho detto l'ha capito bene. E tu hai detto una frase molto bella: se fosse ancora vivo avrei voluto suonare in uno scantinato, sì, con John Lennon. La cosa ho detto una volta durante un giornalista, era un'intervista telefonica, se non sbaglio, quella volta al telefono che mi ha chiamato, era, non so che giornale era, un giornale forse un quotidiano, giovedì del 30 ottobre di qualche anno fa, del 2008, sì, penso che sia stato proprio la... Stavo ancora facendo forse l'album, adesso non mi ricordo neanche. Il giornale, non, la data è il 30 ottobre del 2008. 30, allora avevo già appena finito. Avevi appena finito l'album. Sì, perché abbiamo finito a fine settembre. Sì, l'ho detto perché comunque... Sempre parlato di Fab Four. Sì, sì, sì, ma anche proprio lui in particolare, proprio per un discorso di... la vocalità innanzitutto, la vocalità di Lennon che è tutta particolare, cioè ha una vocalità di quelle più strane, perché è nasale, a volte è stonato, è scordinato, sui dischi lascia incise le stonature, per dire, senza nessun problema, no? Ma non perché si sentisse grande, è per lo stesso concetto che faccio anch'io le cose in diretta, per dire. Adesso sicuramente vuol dire che con questo piccolo problemino può darsi che si sia sentita la stecchettina finché canti dal vivo, no? Ma va bene, ci sta perché è vera. Ci sta, sono d'accordo con te. Ecco, addirittura non solo, perché dal vivo chiaramente la stecchettina c'è, passa, qualcuno se ne accorge, qualcuno no, va benissimo. È sul disco però resta, quello che dicevo prima. Se noi adesso prendiamo un disco, lo ascoltiamo, le sentiamo, le parti, e ce ne sono, ma certamente ce ne sono. È risaputo questa cosa. Io ho letto di recente, ho letto più di una volta che quando sale sul palco Dylan, innanzitutto i musicisti che sono con lui non sanno assolutamente nulla di quello che devono suonare. Cioè, ogni giorno inventa immediatamente. E poi le stonature ci stanno. Sì, sì, beh, fanno parte. E non è mica una macchina, siamo macchine. Fanno assolutamente parte, voglio dire, di quello che è la genuinità della cosa. Chiaramente, sì. Cioè, io in queste cose qua ci credo, anche perché comunque voglio dire ripeto, il problema è quello che dopo il troppo meccanico non può succedere. Facendo un esempio, sì, in un impeto di rabbia, no? Quando noi gridiamo, non sì, è che stiamo lì a pensare se l'intonazione del grido è giusto o no. È chiaro. Quello che viene, ma così è spontaneo, no? È chiaro. Quindi se adesso devo fare un grido al microfono e comunicare che sono incazzato nero, non è che sto lì a pensare, aspetta, la diesis o la bemolle, cioè sto lì, capito? Cioè, quello che viene. Questo è genuino, quindi è questo che deve arrivare attraverso quando si canta. Bob Dylan, tu hai citato Bob Dylan. Sì. È intonato Bob Dylan, per dirti, voglio dire, no? Spesso volentieri vedete questo modo di cantare tutto sgangherato. Sì, con nasale, molto nasale. Ma che mai voluto così? È voluto. Lui è genuino, non è che sta lì a pensare, lui deve pensare che sta mandando un messaggio. Mm. Quindi la cosa importante è il messaggio che arriva. Certo. Okay? Suonaccia la chitarra sotto per la sua stessa missione, gli suona, insomma, la chitarra per accompagnarsi, ma poi questo è Bob Dylan. Mm, chiaro. Questo il testo non è un ottimo chitarrista o un ottimo cantante, è Dylan e basta, è quello, esatto, è questo, una cosa che a me piacerebbe puntare a questa cosa. E Betty Love chi erano? Betty Love era una bella situazione di cui un bel ricordo, acustica, una situazione acustica che avevo anni fa con altri colleghi, una bella situazione perché noi all'epoca, parlo della mia zona, non lo so qui, eravamo tra i primi gruppi che proponevano i concerti in acustico, acustica e batteria jazz, così, però facevamo pezzi moderni rivisti proprio con questo modo acustico, e dopo sono nati come i funghi, ne abbiamo visti spuntare dappertutto, tantissimi, dopo cosa vuoi, io ero l'unico che all'epoca, per dirti, facevo solo questo lavoro qua, io faccio altri lavori, io faccio proprio questa professione, fai musicista professionista, esatto, non faccio, non è che di giorno faccio altre cose, no, cioè faccio chiaramente questo. No, e gli altri giustamente ottimi musicisti, però ognuno con una vita, qualcuno anche sposato, per cui poi sai quando la cosa si comincia a fare, perché poi noi ci piaceva anche tanto, quando facevamo i locali facevamo sempre un bel numero di persone, ti notavano le agenzie e tutto, ma quando poi ti devi prendere gli impegni di un certo tipo, io adesso per dire... Adesso che concerti hai adesso? Io adesso il prossimo concerto è domenica a Brescia, il 6 di giugno. Sì, 6 di giugno, esatto, sì. Sono in cartellone, quindi ospita il Beatles Day che fanno... Ah, bello, Beatles Day, cioè, Brescia è famosissima per quella cosa là. È famosissima, ma è bello perché partecipano musicisti praticamente dappertutto, vengono dappertutto. Io la seconda edizione che va... la prima che ho fatto era il John Lennon Day, che hanno fatto il 5 dicembre, mi ricordo, perché poi lui è morto l'8. Certo, l'8, sì. Il 5 dicembre hanno fatto questa manifestazione bellissima, comunque c'era pieno di gente, ed è per me più soddisfacente perché quando poi io vado là, no, non è tanto perché faccio le cover di Beatles, no, quelle robe lì, ma perché c'è gente che proprio è dentro questo modo di pensare che ho io, capito? Ho quindi capito. Non c'è quello che dice, sì, ma lì ha fatto così, quell'armonizzazione l'avrei fatta. No, cioè, no, mica no, una gara, capisci? Cioè, no. Era lì proprio, vivi proprio l'ambiente, cioè sei immerso nel tuo ambiente, diciamo così. Altre volte sai invece ti capita di suonare in locali anche grandi dove non sei mai stato, città dove mi hanno mai visto, perché è chiaro che se suono nella mia città mi conoscono tutti, no? Quindi vengono semmai anche solo per amicizia, ma quando suono in altre città dove non ti conoscono, quindi vengono a vedere con un certo tipo di curiosità, ecco, non a tutti per esempio piacciono gli Oasis, non a tutti piacciono i Beatles, e quindi è più difficile riuscire a portare a casa a fine della serata, diciamo, un risultato che metta d'accordo tutti. Ci riusciamo spesso, ecco, non dico sempre perché sarebbe troppo, ma il 99% sì, ma il 90%, facciamo il 70, 70%. 77,5, qua sei sicuramente al 100%. Ci uniamo, sì, più o meno, speriamo. Ci uniamo ancora, cosa fai sentire adesso? Ma non facciamo sentire un pezzo del mio disco, sì, perché sì, mi piacerebbe tanto, perché che traccia che vuoi fare sentire? È la traccia la numero 5, la numero Wake 5. Up, perché l'altro pezzo, diciamo che nel disco è quello più rock, quello con l'anima più rock, contiene l'anima più rock. Certo, è proprio così. Ci tengo perché mi viene quasi da ridere, perché penso quello che ho fatto quando ho fatto il disco, nei brani, il brano di punta doveva essere Love Beatles Song. Certo. Quello doveva essere proprio il pezzo su cui ci si incentrava tutto, anche il discorso di un ipotetico video, di un'ipotetica qualsiasi cosa, doveva essere quel pezzo lì. Il resto è nato comunque, tipo, il primo era chiaramente l'idea, era l'antitesi, no? Come dire, uno tranquillo, scanzonato, no? Beatlesiano per modo di dire, in realtà, beatlesiano io intendo quel modo di suonare, quel pop così con gli accordi, quello mi intendo per beatlesiano, certo, con certo, quell'animo certo, così, ecco, quello mi intendo per beatlesiano, poi le ispirazioni sono varie. She's Machine era esattamente l'antitesi, cioè quindi il pezzo invece più del Britpop, se vogliamo più contemporaneo, però un po' più aggressivo, no? Tutto il resto doveva essere praticamente una specie di riempimento. Di corollario. Di corollario. Quindi per mantenere lo stesso tema, più o meno. Però, diciamo, era il pezzo a cui avevo dato nel momento anche della scrittura, se vogliamo, un po' meno importante. Non che mi non piacessero, cioè, no, chiaro. Però avevo dato l'importanza, diciamo, non serie B. Però, ecco, non la stessa importanza che davo... Sono dettagli, se facendo un paragone, Love Beatles Song è 100, quello lì era 99 e mezzo. Siamo là, siamo là. Non 50. Siamo là. E invece per lì sembrerà strano, poi questi pezzi qua sono passati anche per altre radio prima di voi, sono passate anche in diverse web radio, anche radio anche all'estero, anche in Inghilterra per esempio, dove tuttora tipo c'è una web radio nuova che mi trasmette, no? E noi chattiamo e scriviamo, e il pezzo che piace di più per esempio è Happy Me. Ecco, vedi. Per dire cose che io, qui sì, a me piace, però è quello su cui non avrei mai, su cosa punti? Io punto sull'Love Beatles Song. Perfetto, perfetto. Ecco, Wake Up, tornando al discorso, è un altro di questi pezzi per dirti, no, che passava, tra virgolette, più inosservato, no? Però mi serviva innanzitutto perché c'era la necessità di fare quel tipo di sfogo lì musicale, avevo una necessità anche come minutaggi di fare, certo, certe cose, sono sincero su queste robe qui. Comunque mi piaceva l'atmosfera, pensare al fatto c'è una solo di chitarra in mezzo che faccio io, che è arrabbiatissimo, è vero, molto lisergico, esatto, molto semplice, però semplice insomma è molto efficace per quello, certo, che è il genere, no? Anche perché la solo di chitarra del Britpop raramente si sente da solo virtuoso, non dovrebbe essere così, no? Infatti dice una solo proprio che sottolinea quindi quella che è la lo spirito del pezzo, però diciamo è uno di quelli un po' più sottovalutati, per cui se riusciamo a farlo passare io sarei contento. Ma certamente lo facciamo passare, adesso lo sentiamo. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo, allora che è il pezzo rock? Questa tu hai detto una solo di chitarra, io l'ho giudicato lisergica, sì, sì, leggermente lisergica, forse non hai citato Hendrix, però lisergica un po' qualcosa c'è di lisergica. Sì, beh, effettivamente quella specie di figura che si sente nella solo, poi adesso è tenuto molto indietro perché comunque è un'altra cosa che c'è da sapere. Dimmi ste robe che sono interessanti. Ci sono delle persone che le volte ascoltano il disco, più che altro i suoni, no? Sì. Allora, io faccio un discorso discorso molto importante, nel senso che i suoni, quando abbiamo fatto il disco, non l'ho, se l'avessi fatto a casa, cioè le critiche ci stanno sempre, ma anche adesso ci stanno. Però l'abbiamo fatto in uno studio altamente professionale, che lavora con artisti, non posso fare il nome, ma di grosso spessore. Ma veramente di grosso puoi fare il nome dello studio? Lo studio è il New Frontier Recording Studio di Rovigo, di Ugo Bolzoni. Ugo Bolzoni è un tecnico del suono con un'esperienza decennale, sì. Ha lavorato a produzioni grossissime, posso dirlo, anche con le produzioni di Eros Ramazzotti. Certo, perché non lo puoi dire, certamente. Ha lavorato nella dance, ha fatto un sacco di cose. Ed è considerato nelle nostre zone il miglior studio. Non me le vogliono gli altri, cioè io lo dico per la mia esperienza. Sì, tu li hai provati. Esatto, io l'ho provato più di qualche volta. Il Britpop è il genere preferito di Ugo Bolzoni, per esempio. Quindi quando lui ha fatto il mixing, è stato molto attento a ricreare i suoni in maniera proprio come sono nel vero Britpop, perché tanti, madonna, il basso sarebbe stato bello averlo sentito, che si sentisse di più, perché il basso fa tantissime cose, ma McCartney quando suonava il basso suonava, era una chitarra. Sì, è vero, hai ragione. Il canone del Britpop, il basso non deve avere questa evidenza come nel rock, e la stessa cosa vale per la batteria, che sono tenute più indietro. Quindi Ringo suonava in una certa maniera, suonava in una certa modo, era molto soffice, è molto soffice, sì, sì. Non era un gran tecnico, ma era molto soffice nel modo di suonare, no? Sta indietro. Sta indietro rispetto al resto del mix, si dice, no? Significa in parole povere, si sente meno a livello di volume. Ho capito. È più immerso dentro la musica, però deve essere così se vogliamo stare nei canoni. E io volevo tutto un lavoro fatto bene, e Ugo ha fatto un lavoro fatto bene, tanto che, ripeto, quando in Inghilterra abbiamo mandato le preview a queste varie radio, anche a queste web radio, anche altre persone che comunque conosciamo dei contatti, gli hanno fatto i complimenti per i suoni, a lui direttamente, per dire. E quindi vuol dire che ci siamo. Ci siamo, sì, veramente. Ecco, perché quindi, tu ben sai, tu mi insegni che il mercato inglese è molto difficile a recepire le cose che non sono inglesi. Guarda, assolutamente. Io penso che anche Massimo, che qui che c'è stato, che è stato a Londra, benissimo. Anche lui. Pensiamo a un artista come Elisa Toffoli, per esempio, sì. Che non ha mai fatto concerti in Inghilterra, per esempio. È raro, o che io sappia, non ha proprio mai fatti. Io lo seguo Elisa perché è un artista che mi piace molto, per dire. Io ho sentito, ti disturbo un secondo. Io l'ho sentita a una trasmissione di Rai 3. Ha fatto una versione meravigliosa di un pezzo di Kate Bush. Piano e voce, una roba meravigliosa. Sì, sì, sì, beh, lei è un artista, è molto bravo. Navigata, quindi hai detto giustamente che è difficile entrare nel mercato inglese. È difficile perché gli inglesi hanno questa specie di, come si dice, di, non so neanche come spiegarlo con la parola, una specie di verso tipo un italiano, uno straniero che canta in inglese, hanno questa specie di snobismo, un senso puzza buono, naso. Però sì, esatto, cioè, no, anche già nel parlare, comunque poi Massimo c'è stato, lo può confermare queste cose. È difficile, alle volte fanno anche finta di non capire, anche se tu è vero, sei. È vero. È un po', diciamo, un modo loro, diciamo, di orgoglio, forse linguistico, ecco, mettiamolo così, per così dire, no? Per cui capisci che anche se tu hai comunque una pronuncia buona, ottima, quanto vuoi, sei comunque un italiano che canta inglese, quindi c'è poco da fare. Quindi musicalmente ci sono queste barriere. Però ecco, per dirti, quando abbiamo mandato le preview, io ho chiesto dei pareri anche via mail, quindi i pareri, vuol dire, privati, perché probabilmente, sai, a uno che gli interessa niente ti avrebbe detto sì sì, bello, ok, posto. E basta, finita. Io ho chiesto proprio, detto, no, io voglio proprio sapere, proprio nel dettaglio, anche tramite mail privata, sentiamoci anche al telefono, ma cosa ne pensi veramente? Non delle canzoni, ripeto, a me non mi interessa, cioè le canzoni a me piacciono e le propongo, c'è qualcuno che piace, qualcuno che non piace, quindi non è questo il mio problema. Il problema era dire, sono credibile secondo te quando io canto nella tua lingua? Punto di domanda. Io le mail le tengo da parte perché poi, sai, ti ripeto, a me piace poter fare, se uno dice ma non ti credo, te le stampo, te le mostro, quelle le viste, cioè, puoi leggere che è così. Invece no, dico, chiaramente si sente che non sei inglese perché questo è innegabile, però la pronuncia è molto buona nel disco, è stata curata, che sono stato seguito, non è che arrivo io, tac, no? Però sono stato seguito, sono stati curati i testi, sono stati revisionati da madrelingua, quindi c'è un lavoro dietro. Non da poco. Esatto. Possiamo dire chi, oltre a te che hai suonato, oltre al batterista? Sì, allora, oltre a me, diciamo, io mi sono... Beh, i provini me li sono fatti da solo, batteria e tutto quanto. Poi, chiaramente, in studio di incisione, siccome appunto si parla di lavori seri, ok? Io non sono un bassista, perché se anche so suonare il basso, sapere suonare il basso non significa essere bassista. Vero. Sapere tre parole d'inglese non significa conoscere la lingua, è uguale. Quindi io ho affidato le parti a altri due musicisti di mia grandissima fiducia, uno di quali era anche mio socio in affari, sempre in musica comunque. Omar Pasello, bassista, un bassista tra l'altro comunque molto virtuoso, che suona degli strumenti incredibili, bravissimo, molto in gamba. Che tra l'altro lui suona, ha fatto anche dei concerti, diversi concerti con Alex Da Rosso, che è un vostro concittadino, certo, illustrissimo, ecco, per decisamente dire. Quindi ecco, ti lascio capire, quindi ecco il personaggio, ecco, molto in gamba, ragazzo molto in gamba, è giovane ma è molto in gamba. E l'altro Davide De Vito, un carissimo amico, siamo diventati amici proprio grazie al disco. Lui è un batterista, lui ha non dico l'età perché non è vero, ma più di 40 anni, comunque grandino. Beh, non sempre è giovane, non è un ragazzino, voglio dire. Sempre giovane, però. Sì, sì, giovanissimo. Sì, no, per dire, comunque non è un ragazzino. Sì, ecco. Sì, certo. Lui ha. Sono anni che ha esperienze in studio, anche negli Stati Uniti, con Laura, non la famosa Laura. Sì. Ha lavorato con tutti i dischi, proprio sia in preproduzione, sia anche dal vivo, sia in tutte quante le fasi. Con Zucchero su Shake, con Elisa su Then Comes the Sun, quindi ha fatto un bel po' di lavori. Quindi ecco, è uno che sicuramente un parere suo pesa tantissimo. Io quando cercavo appunto un batterista, parlando appunto con il tecnico dello studio, gli ho chiesto: guarda, io vorrei un batterista che però sappia suonare Britpop. E mi spiego, non basta un batterista che sa suonare, perché i batteristi sanno suonare, ne trovo sempre. Ma che sappia suonare il beat? Deve sapere suonare quello, deve proprio sapere cosa io voglio, cioè proprio gli devo dire una cosa, lui deve capire cosa voglio, no? E non basta ascoltare, non basta solamente ascoltare, ci vuole proprio una, si chiama attitude, l'attitudine a fare una certa, a fare una certa cosa. Lui, gli ho mandato queste preview perché comunque dice: guarda, non so, perché comunque bisogna vedere se lui, tra virgolette, no, perché quando sono arrivato lì con questi provini, erano dei provini abbastanza, sai, sono fatti, sì, fatti, non comunque in studio, li avevo fatti nel mio studio personale a casa, suonano in un certo modo, ovviamente, non è che suonano come una canzone finita, davano l'idea, però io gliel'ho mandati e ho detto: guarda, se ti fa piacere, mi piacerebbe insomma averti, eh. Lui mi ha risposto: bellissime canzoni, bla bla bla, insomma è venuto, ha fatto le sue sessioni, siamo diventati amicissimi, noi tuttora ci sentiamo, siamo proprio amici amici, e anche cerchiamo di collaborare il più possibile lui quando può, perché lui è di Vicenza. Certo. Lui adesso è in turno appunto con Cristiano De André, possiamo dirlo, perché come no? In giro, e lui ogni volta che ci si sente, mi chiama sempre, oppure anche tramite Facebook proprio mi scrive le lettere, come va, come... quindi siamo proprio, abbiamo questo legame. Ed è un grande, perché lui comunque quello che ha fatto con le batterie, io avevo già scritto le tracce di batteria, no? Che sono pressoché quelle che poi sentite nel disco, nel disco. Però quello che, le cose che è riuscito poi a fare lui, no? Perché ho detto: guarda, questi qua sono dei punti obbligati che a me servono, fatti così, no? Per il discorso di arrangiamento. Certo, certo. Il resto vedi tu, giustamente tu sei un stra professionista rispetto a me, che comunque sono un professionista e mi chiamo di serie C, no? Sì, beh, nel senso che sicuramente c'è gente che ha molta più esperienza, molto più in gamma, molto più in tutto. E lui ha fatto quello che sentite, ha fatto un grande lavoro, cioè certamente, non c'è più niente da dire. C'è una traccia in italiano, ecco, parlando dei discorsi dei suoni, infatti si sente proprio chiaramente la differenza dei suoni nella traccia in italiano delle tracce in inglese. Come mai una traccia in italiano? Perché il produttore, che adesso è sparito, il produttore dove è andato? Non si sa dove è andato, è scappato, perché pure tira fuori nuovi soldi per il prossimo disco. No, a parte gli scherzi, è stata necessaria introdurla, perché comunque il progetto, giustamente, mettiamoci anche nei panni di chi ci investe di soldi, no? Elia, che era qui, Elia Capato, è uno di questi, per esempio, che ci ha investito, giustamente, se fosse stato possibile avrebbero anche voluto qualcosa per il mercato più italiano. Certamente. E quindi non voglio neanche dire li ho accontentati, perché pare che gli dai, sai, quella cosa. Sì, non è così. No. Io avevo questo brano in italiano che a me personalmente quella base lì piace da matti. Non piace come canto io in italiano. Ma questo è un altro discorso, per dire, no? Però la base suona bene, tutto il mio arrangiamento col pianoforte, con queste chitarre, c'è questo bello special che a me tanti è piaciuto, no? È stato anche il disco della settimana, ti dicevo prima, sì. No? Che in altre situazioni è stato ben menzionato, insomma ha avuto delle belle soddisfazioni, però dal mio punto di vista, diciamo, ecco, no, è un qualcosa che esula da quello che è la visione generale del disco. Del, no? Disco. Tanti mi dicono: cosa c'entra il brano in italiano? Beh, leggete il disco, c'è scritto bonus track, è un qualcosa, è in vero. Più. È un qualcosa in più, bonus si track. Sente anche nel suono, vorrei farlo notare questo particolare, perché comunque il suono cambia. Cambia proprio la scelta di suoni, la batteria suona diversamente, le chitarre acustiche sono più in stile italiano. Chiaramente. Facciamo notare, insomma. Ok, adesso lo sentiamo assieme alla traccia numero 6, che si intitola Per sempre. Per sempre, ok. Rock Wave, l'onda del rock. porta dai, è già un nuovo giorno. Sto molto meglio sai, tu non mi crederai, stavolta non torno. Però la mia testa continua a pensare. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, ci siamo. Purtroppo dobbiamo finire perché è tardi, perché è giusto che sia così, perché l'iter è concluso, però abbiamo sentito parecchi pezzi, abbiamo sentito suonare soprattutto Alex, questo è importante, dal vivo. Tu sei un uomo da palcoscenico, c'è poco da fare. Grazie. Tu suoni tutte le occasioni giuste, suoni, perché è bello suonare dal vivo, è la cosa migliore. Poi sai, c'è una differenza su, quando sei dal vivo, no? Sempre per la mia filosofia del fare arte, no? Cioè fare arte significa quando tu vai a cantare, fai qualcosa, lo fai cercando di trasmettere. Questa è la cosa più importante, perché la pura esecuzione, dico, buono, faccio gli accordi fatti lì inquadrati a tempo, va benissimo, perché deve essere così, no? Ma se non c'è l'interpretazione, se non va fuori qualcosa, serve ben poco. Certo, sono d'accordo con te. Io quando ho le persone di fronte, e sto qua mi è successo più di qualche volta, un aneddoto che ti posso raccontare. Ma certamente. No? Eravamo a Milano il 7 di ottobre, mi ricordo, 7 ottobre, con i miei due musicisti, no? Quelli che mi accompagnano tu da vivo, perché mi avevano convocato a Mediaset per fare l'audizione per quel talent di Jerry Scotti, no? Sì. Questa cosa qui. Mi avevano convocato loro perché avevo mandato per sbaglio, tra l'altro, un videoclip, okay, perché l'avevo mandato a Mediaset, ma non era per quella cosa, era per tutt'altra roba. E si vede che fosse internamente se lo sono girati, mi hanno contattato, avevo visto il videoclip, che è poi il video che c'è sul mio Facebook di Lady B, è piaciuto, e mi hanno avvisato che c'era appunto questo talent, tutta questa cosa qua, e che mi avevano fissato l'appuntamento per la convocazione. Allora, è successo che purtroppo per una serie di cose, ripeto, io piacerebbe poter essere molto più tranquillo, invece io in ogni minuto della giornata c'è sempre qualcosa da fare, che infatti arrivo sempre proprio al limite dell'energia, no? Io la sera prima è successo un episodio, non brutto, no? Però un episodio, insomma, che mi ha tenuto sveglio praticamente tutta la notte, prima dell'audizione. Alla mattina, quindi, partiamo per Milano, quindi ancora sveglio così. Io avevo l'audizione alle 3. Alle 3 siamo arrivati alle 9 di sera all'audizione. Quindi calcola quante ore non dormivo. Io stavo proprio letteralmente morendo in piedi. Ci credo. Io ho il video, perché c'era l'autista che mi ha portato, no? Aveva la telecamerina. Finché ero dentro nella stanza appunto dell'audizione di Mediaset, c'era questo oblò e lui da fuori tipo riprendeva, no? questa cosa. È stanchissimo. Tu vedevi un'altra persona. Cioè, io ho detto, ma sono io quello lì. Infatti i miei musicisti dicono, ma io vorrei sapere, perché i miei musicisti, uno ha 22 anni, l'altro ne ha 24, io ne ho 36, no? Un po' più, sai che l'energia è diversa, no? Certo. E sto qua mi fa, ma come... fai? Fai, esattamente. Come fai? Perché se stavi morendo sulla sedia lì prima, come fai a avere questa cosa qua? È proprio il discorso, quando c'è di fronte, vuoi dire, questa cosa qui, è proprio una cosa interessante, ci riesco a farlo, ci riesco. Placche o non placche? Placche o non placche. Stasera con questa placca. Ma sei riuscito lo stesso. Ricordiamo, sì, è il meglio possibile. Certo, ricordiamo il tuo sito. Allora, il mio sito ufficiale è www.alessandrobergo.it. Questo è il mio sito ufficiale, poi da lì ci si può collegare. Certamente, il disco si chiama British News di Alex and the East British Band, ucciso nel 2008, poi hai fatto... Sì, il 2008 Alex... è stato il deposito, esattamente, sì. Poi hai fatto Alex Plays the Beatles nel 2009. Il 2009, esatto. E questo. Poi fra poco ne farei un altro, sei pronto? Fra poco noi speriamo, io ormai penso per l'anno prossimo, ormai, perché quello che scriviamo, facciamo la stesura, che i produttori facciano i loro conti economici e tutto... Però c'è qualcosa di pronto, sì. Sì, sì, sì, c'è un po' questo materiale che in beta test, appunto, ho presentato in maniera. Cioè, sono contento di averlo presentato così questa sera da voi, in anteprima. Probabilmente subirà qualche modifica, vabbè, ma non importa. L'importante è che comunque in qualche modo qualcuno adesso criticherà in positivo o in negativo. No, no, ma a me fa bene, perché così riesco a capire se la direzione è quella giusta. Benissimo, allora, grazie ad Alex, grazie al videomaker qui presente. Massimo, grazie a Massimo. È il nostro produttore che non c'è. Il produttore è andato a bere, secondo me è andato dalle segretarie della redazione. Ecco, esattamente. Grazie al mitico Michele che è in regia e a tutto il nostro staff. E salutiamo con un pezzo, Alex. Io vi ripropongo ancora, perché ho proprio voglia di farlo questa sera, poi mi è piaciuto sentirlo prima. Bene. Come abbiamo aperto con She's Machine, richiudo. Ma questo suonando, chiaramente. Questo suonando, sì, sì, sì. Benissimo, buonanotte a tutti e grazie. Grazie a tutti. Rock Wave, l'onda del rock. His smell is everywhere. I can't fight against this hell. I feel attraction, so she asks to me to steal an apple. It's free. I'm not a head, I cannot agree. I can pay this fee. I've never stolen, she's my sin. I've never killed, she's my sin. I've never lied, she's my sin. Do you believe? Do you believe? Can't wait to touch your skin. Hell or heaven, I'm in between. I feel attraction, so she asks to me. We'll be happy, I've got a key. But I'm not stupid, I cannot agree. I can pay this fee. I've never stolen, she's my sin. I've never killed, she's my sin. I've never lied, she's my sin. Do you believe? Do you believe? Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock.